Hola, hola, hola. Canale 10, ma tutti morti? Siete assenteristi, porca miseria. Casino qua. Vabbè, che ci ha brutto, ma attenzione. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio Gaffa. Su 10. Stavo provando a spostare il conto. Non capisco. Va bene. Cavolo mio, mi stavo ritirando l'impianto, ho fatto un po' di malattia. Ho capito una perché c'hai un effetto eco, non lo so, effetto camera, abbassa per appena. Ho toccato l'eco, lo ti senti adesso? No, lascialo così. Capa, ho detto che c'è il mio cugino, quindi, come si dice, e quindi abbiamo cantato un po', mi ho attaccato l'impianto. Capito? Ehi, ehi, aggiungavit, io stavo trattando se adesso lo stesso. Però il problema è una cosa, il problema è che se non canti spesso la prendo di vista. Io mi sognavo qua, non riesce a cantare, ma ci vuole un medio allenamento, capito? Ma già canto spesso, io canto ogni giorno, quindi le corde vocali ci sono allenate bene. Vabbè, tu eri un po' adesso che non cantavi, non me. Scappa, è da un bel po', che adesso non ti abbia nulla, è un casino. Saluta, va. Ciao Giacomo! Non è Giacomo, è Gianni. Ciao Gianni, come stai? Ciao, ciao. Chi è? Ciao Franco. No, no, è mio cugino, le cose. Manuel, mio cugino, capito? È venuto a trovarmi, io ti ho proprio fatto una casa. E via, poi l'accompagno. Ah, bene. telecamera c'è compagnia, dai, vi siete fatti qualche canzone. Oh, qua. Vai, c'hai là, dici di tutti e due. Ah, non ho carinato, non l'abbiamo assaggiato, non è niente di che, abbiamo qualcosa. E dai, vi siete a baidenti così. Che cosa? Vi siete a baidenti. Ehi, appena appena, non lo assaggiamo, vabbè, se era buono, ma mi sembra buono, cazzo, non mi so. Quel vino strano, ma a me non mi piace, quella zona lì. Che tipo di vino è? La Malvasia? No, cos'è? È la Malvasia, sì, c'è proprio quello. A me non piace. C'è manco l'acqua vite, me l'avevo regalato un boccione, poi veniva questa vecchia a bicchierino se la vita tutta Edo, se la butta via te la regalata, te la portavi a casa, perché me l'ha regalata uno, stavo pescando, era d'inverno, stavo pescando, c'è pure sti valori io, questo qui si è avvicinato e mi ha detto non è che mi farà corteggiare, ma puoi riempire questo bidone d'acqua di mare, così non mi bagno. E ho detto sì, non c'è problema, sono entrato, le ho riempito e le ho dato. No, beh, siccome ti ha fatto con un buccione d'acqua vitta, era oro di sorso. E c'è questa la faccio io, l'assaggi. Cazzo, io non ne vico, ho detto, ma non ne bevo. Vabbè, la offre a qualcuno, me l'ha data. E se l'ha bevuta tutta questa vecchia mia, ogni volta che veniva la da zitta. Chissà, mi piace pure a me, me. Questo è buono, vero, qualche non è che l'avevo sempre, qualche volta, solo che i nonni, una partita passa avanti, una volta pure la canta, capito? Il problema è quello. Ma ancora a cantare stavate? Ora adesso l'abbiamo smesso, l'abbiamo. L'abbiamo smesso, eccetera, eccetera. Allora, già, è andata pure oggi. Cazzo, sapevo cosa fa. E il bimbo dov'è? A Orbia, ma mia sorella. Ah, se l'ha portato via lì? Cappa. Vabbè. Va bene, dai. Così almeno stai un po' tranquillo anche tu. E quanto lo tiene, Antu? Ah, faccio vedere lunedì. Ci va volentieri, sì. Sì che ci va, sì, ci va. professionista, lei è una professionista, Manuel, lei è una cantante proprio, canta sul palco, eccetera. Bella voce, ma anche tutte le altre con cui canti, anche tutte le altre sono professioniste, lo so. Che io me la scelgo, Dai, mi ha accentuato, ciao tu, mi sei accettato anche a te, ci sentiamo più tardi. Gappa, vabbè, dai, io sono professionista, ma mi arrangio un po', dai. No, queste che cantano con me sono tutte professioniste, cantano nei locali, eccetera, capito? E niente, io le prendo apposta così perché mi piace imparare bene, quindi mi prendo apposta queste persone qua per cantare. In questura dovete cantare. Ebbene. Ciao Natali, ben sentito, come va? Male, a dolore. E allora? Mamma mia, l'hai fatta quella visita poi, Natali? Ieri notte l'ho fatta. Beh, devo fare un attacco, va. Da voi mi deve venire ricoverare, mi deve venire la cistoscopia, devono togliere quello che c'è, insomma, un casino. Certo, lo devono togliere per analizzare, normale. E vabbè, Natali, già passa il tempo, fregate, poi ti ridimentichi. Speriamo. Ma tutta roba veloce oppure in lungo tempo? E cosa ne so? Non lo so se riesco a fare l'attacco, perché posti non ce n'è, adesso vediamo. E se no, ma si vede che ne di là, vai a pagamento, te la fai. Non me ne fanno, a pagamento tacchi, non me ne fanno, perché ci vuole il contratto e bisogna farla solo in ospedale. Urigo non me ne ha voluto fare, non volevo andare io a pagamento. Cara, è casino, sei sempre una croce, cazzo, una croce, non sei mai da capa si scizza. Oh, yeah. Stiamo diventando peggio dell'America. Se non vai di là, muri, non ti puoi curare. Assolutamente. Purtroppo è meglio non ammalarsi, dai. Meglio sì. Condizione assoluta. Ti colore adesso per quel bumbuglione che mi è uscito nell'occhio. Non so quando devo andare a fare la visita. Figura, di ottobre a novembre mi pare, a Fanguala, o da Vecchiglia. Di tutti i rigurori mi ne sostiene, ma rimane i bracci mati, per carità. E anche quello vuole fare dell'incisione, vuole operato, e io l'ho fatto per l'intervento. Si chiama Calazio. Sì, lo so. Un macello. Di tutti i colori me ne stanno succedendo. Ui. Vai, ho fatto imparare la medicina di Puccio. Davvero. Puccio le cose, le cataratte, e quello... Adesso bisogna vedere se riesce a mettermi in lista quando vado, sempre a pagamento, da insaculista. Ma dimmi di io ero andato da Siri più a Bugino, dopo una settimana mi hanno chiamato, pagato 100 euro la visita, dopo una settimana mi hanno chiamato l'operazione ed erano mesi e mesi che stavo cercando di operare, non ce la facevo. Ma dice che non stanno operando, è quello il discorso. Venga fra 6 mesi, mi ha detto se stanno operando, cerco di metterla in lista. Ma di tu, ti calcoli sta qua. Un bel casino, Natalia, un bel casino. Qui prendo la coperta perché sto crepando di freddo. C'è freddo oggi, anche io mi ha acceso la stufa. Riprendi a tu. Cosa chiamando? E riprendi. E capo, vabbè. 4 bicchieri, non mi metto un bel voto. Non arrivare. Faccio un voto la matta città fa. Dani. Paola. stavo mettendo una coperta che c'è freddo da crepare qua. Ah, sì, io ho andato a morto, ma è freddo. Pensavo a staccare il riscaldamento prima del tempo, potevano aspettare ancora, no? Ieri sono uscito con i guanti perché avevo le mani ghiacciate, sono uscito con i guanti a portare il capo. Già lo so, già è freddo, beh. Ora, ora. Sto facendo solo con i guanti dall'apparecchio, già va bene, dai. E cosa vuoi fare? C'è due bassi. Avanti, la testa. Allora, ieri mi ha fatto solo un'ecografia, quella lì. Allora vuole fare l'urotac, vuole fare. Speriamo che ci riesco a farla. E poi devo fare un attacco per quell'aneurisma che ho. Cazzo di anno. Guarda, non ne posso più. Da una visita all'altra, da qui mi vuole diabetologo, ti fanno fare varie visite. Poi il diabetologo mio ogni tanto rimuova di visite, è oculistica, è questa, è cardiologica. Sì, l'ultima volta tutte me le ha fatte fare quelle lì. Io ho fatto l'oculistica, adesso devo fare la cardiologica. Io l'ho già fatta, adesso per questi 6 mesi non me le devo fare. Solo le analisi del sangue e la pipì li devo portare. E io anche quello devo fare. Ma siamo buchi bene a Parì. Stavamo sempre saltando, che ti lamento. Io, io. E cosa vuoi fare? Quando uno diventa anziano, lo diceva sempre mio suocero, quando sei giovane la vita è discesa, dopo comincia la salita. Ah, è morto da morto, vero? Mio suocero, sì. Non mi ricordo. Aveva più di 80 anni. Aveva 90... 94, tutti e due ne avevano quando sono morti. Sia mia suocera che mia suocera. Già ce l'hanno goduta pure loro, dai. Sì, loro ce l'hanno goduta, stavano bene anche finanziariamente, quindi non hanno avuto mai problemi di nulla. Ce l'hanno goduta bene, ci avevano due pensioni grosse, tutti e due. Meno male. Uno dei pochi che riuscita a fare una buona pensione. Vabbè, quelle lui prendeva un bel po' di su. Lui è andato in pensione come ispettore, quindi. Caffa. Vabbè, meglio così, meglio. Lui anche la moglie era pensionata. Ma di lavoro sempre. Sì, poi allora gli mancavano dei contributi finali e lui li ha versati, gli ha versato questi contributi che gli mancavano, li ha pagati e poi è andato in pensione. E gli hanno dato la pensione perché lei lavorava, era nei coltivatori di reti, mia suocera, ha lavorato ai coltivatori di reti. Meno male, dai. Meno male che hanno vissuto bene. Anche tuo padre ce n'è andato che era grandissimo di età. Mio padre aveva 96 anni. Poteva arrivare anche a 100, Vabbè. Però mio padre se n'è andato perché si è consumato proprio, non era né malato né nulla. E se n'è andato proprio la vecchiaia. Tu pensa che aveva tutti i denti ed erano consumati, ma non ne aveva uno guasto. E si sono consumati sino alla gengiva, immagina. Perché era anziano. Ha dovuto mettere la dentiera perché hanno avuto anche difficoltà per togliere i denti perché erano proprio a livello della gengiva, un casino. Hanno dovuto incidere per togliere. Secondo me 100 anni ti poteva fare. Quante ne avrebbe avuto adesso? E adesso era del 12, fate il conto. Era del 1912, esattamente 9 luglio 1912. Sarebbe stato un tracentenario adesso. È morto più di 10 anni, è vero? Sì. Cavolo, avrà vissuto anche lui molto, molto, molto. Uomini di altri tempi. Sto dicendo una parolaccia un po' guai si vedeva lui che se marciava, lo ci spegneva la televisione, non voleva che porcherie che fanno vedere. Lo so. È una gente di altri tempi era, ho già. Diversamente. Puritano, non gli piacevano le sconcerie, le cose così, capito? Poi vabbè, i figli se li ha fatti lo stesso, perché avevamo 5 figli, non è che temeva, però davanti agli altri cose era molto, capito? Ma allora era così, era così, pure mio nonno era un po' maniera mi capito, però vediamo di parolacci nonno era e tu ride nonno era di quel nonno con di amburo. No, mio padre parolacci non sapeva manco cosa era. Purtroppo era un pochettino un po' grezzone, capito? Cosa voleva? Mio padre era un uomo di chiesa, dell'azione cattolica, stava sotto in chiesa, c'aveva tutti gli amici lì. Sì, vabbè. Qua è un po'. Andiamo tutto giù, ma a me dopo mi ha preso la. Sono sempre in cucina, di no? Tu l'hai conosciuto Torlò, no? Certo che l'ho conosciuto. No, io non me lo ricordo. Tua nonna me la ricordo bene, ma tuo nonno no. Era del 1920 il nonno. Figurati. Anche lui era grandetto. Sì. Pensato con un macello, ma stavo usando il martello, faceva tutto. Quando si incazzava, avanti il martello e faccio tutto e spacco canto vero, così era. Criscioso era. Nonno, sì, quando una volta ti ricordi che veniva la porta a porta che vendevano la roba, ricordo, questo qua non ha fatto la finta di mettere uno di quei napoletani. Ha fatto mettere, siccome mia nonna quando prima ci aveva, ti ricordi che prima si usava di mettere quel passante, quello con la catena, ha fatto robe di gusti. E dopo è andato a pigliare un macete, gli ha tirato un colpo di martello e si è tutto questo qua. Dalle scale, c'è il suo cazzo. C'è il colpo di martello, ma cos'era? Primitivo. Me lo ricordo che si dice che apriva la porta appena apriva. E l'ha detto, non ti fa più vedere chi, se no ti spacco un capo, l'ha detto. Cioè, praticamente, bravo, ha ragione quel giorno, Cioè, chi si, quanti di quelli che andavano a porta a porta prima, chi si piace in napoletano, porta a porta. Lui ha fatto finta di mettere il piede così nella porta per bloccare la porta. E ne è andato, ha pigliato il macchetto e gli ha tirato qualcosa. Quindi l'ha fratturato là. Sì, me ne ricordo che avevano quei borsoni grandi che vendevano detersivi, tutta questa roba qua. Sì, mi ha treggiato della volta. Però non era così, era. La prima era. Cioè, lì però ha fatto bene, perché lì l'avrei fatto una barra di bene pure io, cioè gliel'avrei fatto pure io, perché ha fatto bene. Tu non puoi metterti così e ti metti il piede nella bocca e mi puoi entrare in casa. Chi te l'ha pigliato non manco ne sa. Gli ha tirato, gliel'ha. Sei sceso per la scala. Povaracci, mi sai cosa l'ha fatto? E sicuramente l'avrà fratturato, non lo so. Perché poi il martello di nonno, poi ce l'avevo io, però siccome le troncava sarà preso con il manico di ferro. Capito? Ho capito. Riprendi, palla. Che comunque palla, non la tirano. Lo so, la tele, ma se ci pensi è peggio. Che dovrebbe essere peggio. Ma Coccondo, lo sei sentito? No, non l'ho sentito. Cappa. Ma tu, ma questo tuo cugino è la parte di tua madre e di tuo padre? La parte di mamma. Ah, capito. Fratello di tua madre? È il figlio della sorella di mamma, capito? Ho capito. Acciugavi! Sì. E vabbè, io casetta l'ho frequentata, quindi li ho conosciuti tutti. Però tuo nonno non me lo ricordo. Capace che l'ho anche visto, ma non me lo ricordo. Sì, già l'hai visto. Ah, secondo la minestra. Ha fatto asciuttare. Però che ha fra un poco per ora, via. Perché ci butta la pasta dentro. Ma già manelli, Sidi. Ho fame, pure io ho fame, non mi mangia brutta, guarda. Pensavo che erano gli ultimi ma con qua, ci sono i sette ma con qua, cosa si vede a te la magna? Vabbè dai, e a Natalino non la gara, tu non lo vedi, io sarò tutto e mi lando. Guarda, ma quando la fai di Gigione a Romano, comunque? Cosa si vede da magna, Giudizio? E il gnocchetti ho su cosa facendo, però per il trafitta non c'era. Per il trafitta giù, basta. E poi, cioè, la giù e mezzo e... Gnocchetti oggi, stavolta gnocchetti ha fatto un po' più visto. Gnocchetti era campidanese. Cosa? Ehi, arrivi anche. Scendo al basso di radio, ma basso barone. Ma sai come trovo a promettere un nome a trovo? Guarda a vedere, meglio va ora. Adesso sì. Ho detto. Ora. Ho detto che mi si aspetta un po' a essere che lo signor sta mandando la mano. Ma adesso sto scendo tipo alternata, perché mi trovo un maschio, va bene. Ah, il Marcolino, come? Buonasera a tutti, tornato adesso a casa, ho fatto giretta a Platamona, caffè, gelato, giro panoramico e poi Turrati. Non c'è freddo, Marco? Che lo so. No, la verità, freddo no, c'era appena di breccia ma non era fredda. Oggi si stava bene, però la gente, sai, visto il freddo di ieri, l'altro ieri, e le nuvole non si è fidata, infatti c'era poca gente, molto poca. Buonasera a tutti. Buonasera, ora sto uscendo. Sì, Anton, però distorto. Problemi a coso, ci sono problemi al connettore. Sbaglio un radio. No, è come saturetto, un po' saturo. Natalì, tu cosa mi racconti? Te l'hanno tagliato il pisello? Non sono riusciti, però la dottoressa mi ha fatto un pompino. Ah, no, ma dico, tutto bene, com'è stato? Mazzo, e buh. Devo fare un urocopio, poi mi ricovera adesso e mi fa la cistoscopia e taglia tutto, anche il pisello. Cioè cambiamo sesso direttamente, vabbè. No, io credevo che fosse un'uroscopia, quella è più fastidiosa, vabbè. No, devo fare un urotacco. Devo fare. Poi mi ricovera e mi fa la cistoscopia. quel grano. E tagliano quello che c'è da tagliare, ha detto, direttamente. Vino, grano. Hai già scelto il nome della sua, della tua nuova, come dire? Maraviglioso. Prosecco la parola, se la sta lì. E chi è che ne ha detto parola? Ha detto un po'. Sì, vabbè. Quintuplicato. Io Marco Condo già ci capiamo. No, poi quello si chiama Soffogotto, capito? Sì. Però gentile quella dottoressa, veramente brava. No. Ieri notte non l'hanno fatto. Mi dissocio. Hai capito, di notte una dottoressa gentile, tocca le parti intime, ma abbiamo capito tutti, dai. E allora? I soldi non fanno la felicità? Di notte, per favore, me l'hanno fatta quella vita, non ha computato, diciamo, i soldi non fanno la felicità. Mi sono più tu, guardare lì. Ma te lì, un tettone ti hanno tagliato, buonasera a tutti. Sì, ma cos'è? Ma dite, si stanno tagliando un bottettone. L'uccello mi hanno tagliato. Che suga, che perdita. Sì, lo da fare il cane, mi cammino. Tipo salsicciotto. Ciao. Va, non mi vengono i nomi. Signore, si chiama Tore Squalo, quello lì, sempre in agguato. Tore, dai, riprendete voi, Gian, riprendi che io vado a bere, dai, che ancora devo disfare tutta la roba che mi sono portato. Ma te l'ha messo raro? No. No, ma da molto ci siete, perché tanto ho pensato, guarda, se devo mettere la radio ci metto 20 minuti, cioè ci vorrà un lavoraccio a mettere la radio, poi vado lì e non vedo un'anima, né all'andata né al ritorno, scommetto che eravate tutta la sera in radio invece. No, tutta la sera a Roma ci siamo già un bel po'. Sì, vabbè, mamma, sai cos'è? Per non mangiare il cervello a mamma anche col volume alto del baracchino in macchina, perché in macchina devi alzare un po' il volume, sennò tra rumori della turbolenza dell'aria, il motore, non senti bene, capite? Ma c'è, è stata un'andata bella, tranquilla, e altrettanto tranquilla il ritorno. Solo due babbei si erano tirati al cavalcavia, c'era cavalcavia tra via Trinità e via... e via Paolo Torres, c'era una macchina che aveva tipo testa a coda, mi si sono sbattuti, come rovinarci le feste. Lì Marco è un brutto punto, perché tu quando parti dal semaforo che viene da Porta Sant'Antonio lì, ti trovi le altre macchine di fronte, te le trovi proprio quasi attaccate. Non so se l'hai notato, quando devi andare verso via Bugino tu, ti trovi le macchine che vengono dall'altra parte, quasi a fianco. Ma quello è il semaforo, no, era proprio a metà del cavalcavia. O qualcuno è arrivato sparato, l'ha beccato da dietro e la macchina si è girata. E c'erano i vigili urbani che stavano dirottando il poco traffico. Va bene, signori, a dopo, riprendi Tore. Sì, già. Ciao, va bene. Allora, Nathalie, come te la senti? Male, non sto bene, no. Aspetta che andiamo, bobo. Non ti si può lasciare tranquillo oggi, no? Ciò non ne manca mai, no? Pago un prassimato, un bago. Ma poi il sesame, cazzo, non va ne mai rogo e devo andare a fare in corsi per fare il sesame. Ma dimmi tu, cazzo, che appunto se mi arrivi. È così. È così, infatti. Cazzo. Gianni! C'è un rumore di dare un freno, mi grida. Ah, fate buone di una frenella in più. Mi sono convinto la commessa in nato. Una bella vanta. Perché qua non aspetto già riscaldamenti e la casa si raffredda, perché la mattina apro sempre le finestre per cambiare l'aria. È normale che si raffredda un po'. Aspetta, sta arrivando il caldo, un paio di giorni, poi dal primo maggio dovremo avere un temporale. E si compra di più nuda. Due dì che arriviamo a 30 gradi, arriviamo. E poi dal primo maggio dovremmo abbassarsi. E così che ne vediamo rimarranno. Era una notizia che ci dovrei guanti. a chi ve lo offre da morire. Io stamattina lo stesso anch'io sono uscito con i guanti, in macchina mi ho messo i guanti, mi ho messo anche lo sterzo era ghiacciato. Mi ha dato che siete usciti con i guanti. E tu anche non ti rimuovi. Io guanti non è grazie, ci vuole il fisico per queste cose. Allora c'è un fisico bestiale. Io faccio più male, più male picchia l'India. Ci può generare ci vuoi. Ma si infredda a riparare un mattesci, bruci un fisico che ha. Io penso che la morena di freddo è di burro, non mi dice no. No, ce l'era freddo, ieri notte, otto, lascia freddo, ce l'era peggio un mese fa. E dopo tu che stai all'aperto, cazzo, mamma mia, non c'è un riparo, Manuel? Sì, ci andiamo il gabbiotto. Ah, come ti ribizzoni? Sì, sono quei gabbiotti, quelli di ufficio che metto. Ho capito, tipo quelli per le sentinelle, così. Come c'è all'ospedale, alla stecca bianca, c'è il gabbiotto lì. Sì, ho capito com'è. Ebbene, sono caldi quei gabbiotti o sono ghiacciati? Allora, in effetti qua ti dico una cosa, sono convertati quei gabbiotti lì. In inverno non rimane ghiacciato perché sono isolati a pannelli dentro e d'estate i muri di caldo lì dentro. Vabbè, d'estate puoi sempre uscirtene, non è che... Ma di inverno che dove è freddo. Io mi ricordo che quel mio amico mi diceva con la neve, i continenti, cazzo, facendo la guardia a questa fabbrica dove facevano bracciali d'oro, tutta questa roba qua, maneggiavano oro praticamente. E faceva la guardia, ha detto che una notte ha dovuto chiamare il cambio perché non ce la faceva più, c'era la neve e stava crepando. Meno male lui aveva il gabbiotto, io che stavo in macchina quando ero su, nel continente, con la neve, cazzo, e ce n'era freddo, e veniva freddo, eppure cazzo in macchina, dall'8 di sera per stare se rimasano. Vabbè, ogni tanto ti potevi mettere in moto la macchina e c'era il riscaldamento, non dico tutta la sera, però ogni tanto. Gianni, aspetta un attimo. No, a stare accendere le spegne, cosa ti durava il caldo dentro? Mezz'oretta ti durava. Manuel, aspettate un attimo. E via. Vai. Picchia, ti ho messo più meglio. Io non metto che andavo a piccare di notte, di inverno. Andavamo in macchina, mettevamo le campanelle, ci accendevamo il riscaldamento. Un bicchiere di cosa, di caffè caldo col termos e via, e poi quando suonava la campanella ci va. Allora io facevo servizio, facevo cantonamento in questa villa di questo qui che c'aveva lo showroom a Milano di vestiti al Camorra, facevano vestiti lì e in pratica come arrivavo toglievo il cane perché c'avevo anche il cane, no? C'avevo questo bel pastore tedesco e quando entravo parcheggiavo e toglievo il cane e poi mi facevo il giro alla villa. Ma cazzo, quando iniziava a scendere verso le 10, le 11, ui. Giro col cane lo facevo. Sì, bello cazzo, il pastore tedesco, cazzo un bel cane era. E ti riconosceva, era bravo. Quando mi vedeva perché sapeva che usciva, no, con me. No, era bravo, un bravo cane. Bianco per me che vuole mangiare. E il padrone. Ma poi ce lo metteva dentro. Quello che lo toglievamo eravamo noi quando facevamo servizio. Cos'era? Antirapina? No, era un pastore tedesco, neanche a destra, però già era intelligente. Quando lo chiamavi veniva subito, e specialmente quando sentiva rumori. No, stavi dicendo, tu facevi un servizio anti-rapina, non lo so, antisequestro. Ma perché? Per il cane. No, per una villa, per la, per il servizio che facevi tu. Poi avevo un amico che faceva alla villa di Salis, faceva antisequestro, perché erano sequestrabili, capito? Quindi c'aveva, adesso poveraccio è morto. Era anche da appena antisequestro, perché questo aveva una vacca di dinar. Sotto nel garage, nel seminterrato, c'aveva 4 o 5 Ferrari, una di passare l'altra. E cosa te ne vai? Li vai a frazzicare? No, già li usava, faceva un giro per due, ogni giorno ne prendeva una. Poi quando andava a farsi il weekend andava col fuori strada, con Range Rover. Senza di là era rimasto, uscire. Tu devi vedere la casa che c'aveva, ti metteva la mano in testa, è il terreno che dovevi girare tutta la notte. Lo so. Vabbè, anche quella dove c'era quel mio amico, c'aveva un bel terreno, c'aveva le tettuie con i trattori sotto, c'aveva macchinari di tutti i tipi, insomma, e magari siccome il segnale, se c'era qualcosa che non andava, era aprire e chiudere il cancello. Lui dormiva in macchina, questo amico, dormiva, faceva servizio in macchina di notte. Cazzo, lì sono andato a ciapparlo, mi diceva passa già, passa, c'era il baracchino in macchina. E sono passato a trovarlo, mi sono gomusato, cazzo, si apre, si chiude, lui ci apre il filo orario, adesso arriva il figlio, adesso arriva la figlia, adesso arriva lui, sapeva tutti gli orari. E dopo che sono arrivati tutti, comincia a aprirsi e a chiudersi il cancello. E lui ha subito suonato, era tardi, erano le 2:30 di notte, roba di mattina. Ha suonato, signora, qualcosa è successo? No, signora, perché si sta chiudendo a prendere il cancello? Poi guarda, cazzo, già, che li busa dell'antenna telecomando. Adesso te ne dico una, noi avevamo anche servizi di Silvio Berlusconi ad Arcore, facevamo un servizio anche lì, e quello di Moratti, lì ad Arcore, ma ad Arcore, quello di Moratti è in Bersago, facevamo la villa, servizio lì di piantonamento, cazzo va via più di 50 ettari di terreno per girare. E non giravi a piedi? In macchina, cazzo a piedi. Cazzo a piedi, cazzo di bichini, sono lui. Ciao, anche Emanuele. Ciao Marco, erano bei tempi, cazzo, già ne ho fatto di gavetta, uia. E beh, tornate lì, non fa. Io sì che fa, ma no, non mi piace più andarmene lì. Ci sono stato 22 anni lì. 22 anni sempre lavorando lì a Milano? Sì, sempre a Milano. Avevo 21 anni quando ero iniziato ad andare lì. Me lo ricordo che tu eri partito da qua, che Luca me lo diceva, che eri partito ed è andato fuori. Poi anche lui era partito. E chi? Luca Flippi. Lui era a Parma. Luca era a Parma. E c'aveva la pizzeria lì. Sì, era a Parma, era andato perché c'era la sorella, il cognato lì. E lì stava bene, solo che poi è dovuto ritornare perché ne parla la madre, non stava bene, è dovuto tornare qua. Già me lo ricordo, sì. Quando ci sono queste cose qua. E così, sì, sono stato 22 anni, ci sono stato lì a Lecco. Ah, tu eri a Lecco? Cazzo, io c'ho l'amica di Lecco. Facevamo Lecco, facevamo lei, l'azienda era Lecco, l'azienda dove ero io della vigilanza, Lecco, facevamo la zona di Como, la zona di Agrate Brianza, facevamo la zona di Castellini, eravamo più di 1000-1500 guardie giurate, fatelo conto, solo nella zona di Lecco. Tutti siciliani e sardi, vero? Sardi, sardi a venire a culo, mi sa che vi sono io sardi. E invece dove c'è quel mio amico ha detto che ci sono siciliani e santi, perché non ci vanno, perché quelli del posto non ci vanno a fare quel lavoro perché hanno paura, dice che rischiamo troppo. Il lavoro è quello, si sa, il lavoro è quello lì, non deve aprirlo, si rischia troppo. Allora non ne va domanda. Infatti non ci vanno, proprio non ci vanno. Questo amico mio l'ha visto su un giornale che stavano cercando fuori il continente, ha scritto, ha fatto, ha telefonato, l'hanno fatto fare la divisa su misura perché lui è un extra large, anzi adesso ha dimagrito un bel. Dopo che ne è venuto diabete ha fatto la dieta, è diventato una silhouette. Poi questi lavori qua, allora ti ripeto, questi lavori qui ti da mangiare, ti da mangiare perché sei fermo. Poi se fai tanto allenamento, anche la pigia in macchina, se fai la roda, meno male un po' passi al tempo, no? Ma quando sei di tanto allenamento, fumi o mangi o bevi, tre sono i gozzi, perché quel amico fumava un bel, era una ziminea, stava sempre tossendo, era diventato pacari dai, stava sempre fumando. Lo so, ho visto di gente che cazzo era, cazzo una ziminiera, una dietro l'altra, ma quello è lo stress pure. Lo so, nervoso. Avanti Marco, ci sei? Già, mi stavo mettendo una felpa perché gira gira c'è più fresco a casa che non fuori. Comunque oggi non si stava male perché il brezzo non è il brezzo, il vento non era vento ma era brezza. Poca gente, un bel di parcheggi liberi. Ti dico che sono stato bene. Tanto che